Che traffico, che traffico! Brutta stronza, ma non mi vedi che entro in rotatoria? Cosa hai detto? Sarei scesa a prendermi come souvenir un ciuffo dai tuoi capelli, ma sarà difficile da un metro di distanza, Dio cane! Il modello di Dumas! Antistress con Wombat. Festival della letteratura sociale, in onda ogni domenica dalle 15.30, in diretta Poiuit, lettere contrarie. Wombat.noblogs.org. No more traffic. Fate viaggiare. Leggere è un modo per viaggiare. Yeah! What's up, y'all? This is your boy D-Mike. See, I usually do songs with like hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Direi che è il modo più bello per viaggiare. Holly came from Miami, FLA. E buongiorno, buon pomeriggio e buon ascolto a tutti. Siete sintonizzati sulle frequenze 13.59 di Radio Wombat oppure ci state ascoltando sul nostro wombat.noblogs.org. Io sono Mario, come ogni domenica, ma questa è la penultima volta, sono a tenervi compagnia in diretta e come la domenica scorsa accomuniamo la diretta delle 19 consueta e la puntata del pomeriggio di Poi You Eat Lettere Contrarie che si sposta in questa seconda fascia oraria per questa duplice puntata che abbiamo organizzato assieme al laboratorio teatrale Postwork. In the back room she was everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given head she says hey babe. Poi You Eat, ormai lo sapete, è la trasmissione di Radio Wombat tutta dedicata alla letteratura e più precisamente a quella letteratura portatrice in senso lato di una cultura libera, solidale e critica della società capitalista in cui viviamo. Romanzi, saggi, poesie, opere di teatro, riviste e quant'altro, tutto accomunato dalla convinzione che la cultura abbia un valore incommensurabile e debba essere sempre condivisa e accessibile a tutti. E ci sembrava infatti giusto svolgere queste penultime due puntate di Poi You Eat assieme a due degli iniziatori, ai due iniziatori del laboratorio teatrale Postwork, anche perché Poi You Eat, ricordo a chi ci ascolta, che nasce in occasione del Festival di Letteratura Sociale che per il quinto anno consecutivo si sarebbe dovuto tenere a maggio negli spazi autogestiti della Polveriera, ma poi per ovvie ragioni così non è stato. Il festival è rimandato nella sua dimensione fisica con incontri con persone, voglio dire in autunno, ma già adesso lo abbiamo svolto da maggio fino adesso a fine giugno qui su queste frequenze e infatti nelle ultime due puntate abbiamo parlato di poesia, ma nell'ultima in particolare di teatro assieme a Pachita. Oggi invece abbiamo l'altra grande anima del laboratorio teatrale Postwork, ovvero Andreas. Benvenuto Andreas. Buonasera, buonasera ascoltatori. Ci sentiamo e ti sentiamo bene, allora un attimo. Ed ecco, eccoci, scusate, facevo un po' di confusione con i volumi. No, dicevo che ci sembrava più che giusto svolgerlo qui, insomma, un discorso attorno al teatro, anche perché sicuramente avrebbe trovato spazio, non sappiamo ancora come, in che modo, in che forma, ma sicuramente il laboratorio teatrale Postwork avrebbe avuto luogo all'interno anche della 4 giorni del Festival di Letteratura Sociale. Speriamo quindi, Andreas, di aver semplicemente rimandato magari questo appuntamento all'autunno, però intanto noi ci siamo lasciati la settimana scorsa assieme a Pachita parlando un po' della storia di come è nato il laboratorio teatrale Postwork, che da quest'anno svolgeva questi corsi gratuiti in Polveriera Io ti inviterei a ripartire anche a te da questo, prima poi di arrivare a qualche altro argomento intanto. Certo. Parte tutto da una volontà di sperimentare, di fare teatro, un po' perché mancava quella parte politica, fare teatro totalmente che riguarda temi politici, quelli che più o meno nelle varie assemblee durante gli anni abbiamo sviluppato, abbiamo frequentato, quindi la nostra necessità era riflettere e provare a fare una ricerca appunto su questi temi che stiamo portando avanti da un sacco di anni. E quindi il nostro è stato proprio dalla mancanza dei precedenti laboratori di occuparsene di un teatro veramente politico, ma che riguarda anche i nostri spazi, no? Quindi anche un po' una ricerca, anche un riflesso su come noi gestiamo gli spazi, che dove sbagliamo, che cosa non facciamo bene, come ci possiamo migliorare, anche una autoriflessione sui nostri argomenti. E io di tutto questo ti inviterei a parlare diffusamente fra pochi minuti, giusto il tempo di trasmettere ancora fino all'ultima puntata. Ci continuano a venire mandati i consigli, poi magari ti colgo alla sprovvista e li chiedo anche a te. Ci sono alcuni autori, alcuni ascoltatori che ci mandano i loro consigli di lettura, sono la top 5 che abbiamo chiesto loro dei loro libri preferiti e del perché. Ce ne sono arrivati altri, oggi ne mandiamo 3 e domenica prossima, invece nell'ultima puntata di Poi You It della stagione, che andrà in onda alle 15.30, manderemo quelli che invece ci mancano. Quindi oggi sentiamo brevemente questi 3 contributi. L'invito è ancora aperto fino a domenica prossima a contattarci tramite la messaggeria del Wombat o a postawombat@insiberia.net per mandarci gli audio dei vostri libri preferiti. Saremo felicissimi di ritrasmetterli, ne mandiamo alcuni adesso e poi di quello che abbiamo anticipato torneremo a parlare fra poco assieme ad Andreas. Allora, top 5 dei miei libri preferiti. Io sono Giovanni Ceccanti. Li dirò in maniera molto istintiva per non lasciar fuori troppe cose di cui poi mi potrei pentire. Andando in ordine cronologico in base a come li ho letti, per primo direi Franny e Zui di Salinger. Il libro parla di questi due fratelli, Franny e Zui, che fanno parte dell'ampia famiglia di bimbi prodigio che è la famiglia Glass, di cui il più famoso esponente è Seymour, che compare anche nell'altro romanzo breve di Salinger, che è Alzate l'architrave carpentieri e Seymour introduzione, e nel racconto celeberrimo, racconto perfetto, che è Un giorno ideale per i pesci banana. Qua invece sono Franny e Zui, appunto, una parte per ciascuno in questo romanzo breve, asciutto, dove si profila un po' la filosofia dello scrittore, la filosofia orientale zen dello scrittore in un modo inedito, anche in relazione alle letture che ho fatto in seguito sull'argomento, in un modo sì dove permane, insomma, in tutta la storia, fatta di niente, insomma, fatta di dialoghi molto molto semplici e minimalisti, questa magia e questa profondità, insomma, diventa sempre più evidente man mano che si procede nella lettura. Dopo questo libro più corto mi viene in mente un libro per me fondamentale, che è Underworld di Don DeLillo, un testo importante nel postmodernismo americano. Sono un po' combattuto fra questo e Infinite Jest di Wallace, ma scelgo questo, che è più dichiaratamente forse privo di trama e privo di elementi distopici e di pura invenzione, per parlare dei personaggi più disparati, seguendo il destino di una palla da baseball che, scagliata fuori dallo stadio, rimarrà nei cuori degli americani, perché è una palla che veramente nella storia americana ha significato moltissimo nello sport, nella passione degli americani, e in questo romanzo serve da pretesto per seguire i personaggi appunto più disparati ed entrare nelle loro intimità, con uno stile che direi è la cosa principale di questo libro, una scrittura ben evidente, lo stile di De Lillo che mi ha invogliato anche a scrivere e a creare a mia volta. Per terzo, rimango ancora negli Stati Uniti, pilastro della letteratura americana, quindi della letteratura mondiale, dico, e non posso non metterlo, questo Moby Dick di Herman Melville, romanzo ovviamente più vecchio, siamo nel 1850 quando Melville lo scrive, perdendo chili, perdendo ore della sua vita, quindi sacrificandosi moltissimo, scrivendo la famosissima storia del Pequod, della baleniera, dove il capitano Ahab è seguito dagli occhi di Ismaele, ma poi dai nostri, all'inseguimento di questa balena bianca, libro molto lungo e pieno di divagazioni, che lo rende in un certo senso un libro postmoderno ante litteram. Le divagazioni, sia quelle scientifiche nella cetologia, sia religiose, sia di costume, sia nelle abitudini, sia antropologiche, etnologiche, di narrativa di viaggio, sono moltissime le divagazioni che lo rendono, secondo me, ancora più prezioso della enorme metafora che mette in campo e che non ha bisogno di spiegazioni, ovviamente. Moby Dick non è una metafora di niente, è soltanto una balena. Poi finalmente usciamo dagli Stati Uniti. Per quarto dico una lettura che ho fatto successivamente, altro libro breve, libro di racconti, Jorge Luis Borges, Finzioni, libro che ti lavora dentro per sempre, sempre di più, e come diceva Borges, allora, comunque, altro libro che non capita moltissimo. Racconti perfetti, come dei diamanti. Ogni racconto spalanca universi che centinaia di pagine non sono neppure necessarie, ma ne bastano così poche. Comunque, altro libro che probabilmente conoscete. Il quinto che dico e che non posso non dire, l'ho letto invece successivamente, il libro che ho avuto difficoltà a trovare per molto, poi è stato ristampato. Si tratta di Il pellegrino cherubico di Angelus Silesius. Questo è un libro, l'unico libro vecchio, diciamo, più vecchio, più antico che metto nella mia top 5. È stato scritto nel 1600 da questo Silesius, cioè della Slesia. Angelus Silesius era un tedesco e si è posto come obiettivo il mettere in versi distici, la mistica. Dunque la mistica, in particolare la mistica speculativa che si era sviluppata nel Medioevo, in particolare la mistica di Meister Eckhart, il grande mistico tedesco, coevo di Dante. Qui è messo in poesia, in questi distici incredibili, bellissimi e iperpoetici, che consiglio vivamente, un libro un po' meno conosciuto, Il pellegrino cherubico. Si collega un po', e chiudo il cerchio, al pellegrino, i racconti del pellegrino russo che legge sempre Franni, del primo romanzo che ho citato di Salinger. Non è la stessa cosa, ma si tratta comunque di mistica. la mistica. E va bene, direi con questo concludo la mia top 5, quindi grazie per l'ascolto. Ciao. Ciao a tutti, io sono Damiano e i miei 5 libri preferiti sono Basta piangere di Aldo Cazzullo, Il falco delle nevi di Stuart Harrison, I mille splendidi soli di Khaled Hosseini, di Mauro Corona, Cani, Camosci, Cuculi e un corvo, ed infine Shantaram. Un romanzo autobiografico che racconta la storia schietta e antiretorica di un latitante, al tempo rapinatore, eroinomane, evaso da un carcere in Australia e rifugiatosi in India, dove alla fine acquisisce la consapevolezza di dover combattere per ciò che crede giusto e inizia una vita onesta a Bombay. Buona lettura a tutti. E un forte abbraccio. Ciao, ecco allora, fare una lista dei primi 5 libri non è semplice. Sono lontano dalla mia libreria ormai da molto tempo e provo a ripercorrere così, i libri che mi ricordo, ma di sicuro, quando ero ragazzo al liceo, di Zola Germinal, essendo all'epoca impegnato nei collettivi studenteschi, ecco, questo libro, dette corpo proprio ad alcune delle mie. Delle idee che, insomma, che avevo. Poi sicuramente quando avevo 20 anni, un libro minore di Jack London, Il tallone di ferro, un libro di fantapolitica che si immagina una specie di rivoluzione negli Stati Uniti da parte della classe operaia americana. Sempre in quegli anni mi Come ci ricordo siamo incontrati cosa benissimo mi ha che proprio fatto? un libro che io regalai a un sacco di amici. Di Fernand Braudel, che è uno storico, non c'è bisogno di introdurre quest'uomo. Il libro che mi ricorda e mi entusiasma fu Il Mediterraneo, che rappresentò benissimo due amori di quell'epoca: il mio amore per la storia, che veniva e poi mi ha accompagnato un po' anche per tutta la vita, e il mio amore per il Mediterraneo, sentendola profondamente come il luogo, la regione geografica in cui ho le radici e dove abbiamo noi tutti quanti le radici. E per farla un po' più breve, diciamo, per andare agli anni più recenti, ecco, forse cambiando completamente regione, un libro di Moyan, Grande seno, fianchi larghi, che è potrei dire quasi una specie di 100 anni di solitudine della Cina, cioè un libro epico, un'epopea che attraversa tutta la storia del Novecento, da prima della costituzione della Repubblica Popolare Cinese, anzi da ben prima di questo, perché si parte dalla guerra contro i giapponesi, poi dalla guerra civile tra il Partito Comunista e il Kuomintang, insomma, attraverso varie generazioni, e dico come 100 anni di solitudine, perché è attraversato anche da questi, cioè non c'è solo una lettura molto realistica dei drammi, della violenza, di quel, ci sono delle iscrizioni, sono di un crudo incredibile, però c'è anche una lettura magica della realtà, questa magia particolare che è figlia della cultura antica, ancestrale cinese. Io non sono un conoscitore della cultura cinese, però ecco, penso che sia un romanzo che ti permetta di capire molto di quell'universo culturale. E infine arrivo al romanzo che ho per le mani, che ho trovato in questi giorni di quarantena nella libreria che ho, piccola libreria che ho qui a disposizione, Napoli 44 di Norman Lewis, che poi ho scoperto essere un classico, un cult, che è presente in tutte le case partenopee, insomma, almeno dei buoni lettori. Ecco, Norman Lewis all'epoca era un soldato inglese presente a Napoli quando ci fu la liberazione, dopo le giornate di insurrezione a Napoli contro i nazifascisti. lui aveva compiti anche di pulizia, mi pare. Questo è un diario che è, anche se lui ha la grande capacità di riuscire a leggere alcuni tratti profondi e a descrivere la realtà cruda della mia città natale. Anche se alcune volte con questi occhi un po' di superiorità, tipica anglosassone, fastidiosa, però ecco, ci sono delle parti che mi hanno veramente molto colpito. Ma io ve ne leggo soltanto una, che racconta di come il comando inglese istruiva i propri soldati nel caso in cui fossero stati, come dire, fossero caduti dietro le linee nemiche, per ritornare, verso il sud, cioè quindi verso lo schieramento alleato, non dovevano, l'indicazione era che non dovevano minimamente rivolgersi alla borghesia, ai notabili delle città, ma dovevano chiedere aiuto e solidarietà soltanto ai poveri. E proprio dice così: prima della cattura avevano assistito a una di quelle generiche lezioni della Security Force sul modo di affrontare situazioni del genere, e ora, entrando in un paese, mettevano a frutto le raccomandazioni di non cercare mai aiuto o cibo nelle case dei notabili, ma di fare affidamento solo sui poveri, perché non hanno niente da perdere. In realtà, da perdere avevano la vita, visto che i tedeschi concedevano a chi nascondeva prigionieri in fuga giusto il tempo per confessarsi. Ma nessuno degli italiani che hanno aiutato i nostri cinque amici a tornare ci ha pensato su neppure per un attimo. Il viaggio era durato e continua così. E poi lui conclude dicendo: quando avevano fame, sceglievano in qualche strada di paese una casa modesta che sembrasse promettere bene, bussavano alla porta, spiegavano chi erano e chiedevano da mangiare. Non è mai stato loro negato. Ecco che poi lui si domanda: questo rafforza l'impressione generale di civiltà e di fortissimo senso umanitario dei nostri ex nemici italiani. Dal momento che il senso umanitario è al di sopra delle parti, non ci sono dubbi che gli italiani siano altrettanto disponibili con quei tedeschi che chiedono loro aiuto in circostanze analoghe. Trovo dunque riprovevoli la collera e il desiderio di vendetta di cui diamo prova quando veniamo a conoscenza di casi in cui gli italiani mostrino anche solo compassione per i loro alleati di un tempo. Ecco, sono pagine commoventi, ecco, a me mi sono piaciute molto. E ciao a tutti. E siamo di nuovo in diretta qui su Radio Wombat in compagnia di Andreas dal laboratorio teatrale Post Work. Beh, intanto prima di ritornare subito al discorso, ancora un ringraziamento a tutti i bellissimi contributi che anche questa settimana ci sono arrivati dagli ascoltatori, dalle ascoltatrici. Vi invitiamo a mandarcene ancora alla fine di questa serie di puntate dedicate alla letteratura. Faremo alcune puntate speciali nelle quali manderemo praticamente, senza praticamente, manderemo soltanto i consigli degli ascoltatori, e poi in autunno, se il Festival della Letteratura Sociale, come speriamo, si svolgerà, a quel punto troverà anche lì un esito tutto questo. Quindi ancora per una settimana mandateci alla messaggeria del Wombat, il cui link sta nella prima pagina del sito della radio, la vostra selezione di libri, oppure inviateceli a postawombat@insiberia.net. Ma beh, torniamo prima poi di magari raccogliere anche te, Andreas, per questa domanda. Ti vorrei domandare ancora ci parlavi prima della genesi del laboratorio post-work, della vostra attività. Allora, subito dopo eravamo a Spons, ci siamo incontrati a Spons Festival. Il microfono è spento, scusami. Ok. Spento, ecco. Ci siamo incontrati con la Pacchitta al Spons Festival, che è il tema, per caso o per volontà, non si sa. Noi non credo che non crediamo tanto al caso, crediamo sulle volontà. È stato sulla peste e il loro laboratorio, che facevano un laboratorio di teatro dell'oppresso, durante il festival, era sulla restanza. Sempre mi confondo, no? E che è un termine abbastanza nuovo anche per me, no? E questi erano i figli di base. Poi la nostra era una necessità che partiva proprio da teatro politico, quindi teatro comunitario, teatro politico. Volevamo lavorare con le persone, con qualsiasi persona che aveva volontà di buttarsi, di dire la sua, e teatro sicuramente un sottofondo politico. E lì, sotto la ombra del Torre della Salvaguardia del Bagnino, è cominciato tutto. Cioè abbiamo avuto proprio la spinta per dire sì, cominciamo, cazzo. E così siamo cominciati. Il brano Sulla Peste, fra l'altro dello Spons Festival a cui accennavi lo abbiamo mandato fra l'altro domenica scorsa con Pachita. Appunto il podcast si può trovare da qua sul sito wombat.noblogs.org nella sezione dedicata a Poi You It. Ma ci parlavi in realtà anche di come questo in realtà sia stato un incontro che vi ha permesso di avviare un percorso che in qualche modo è stato profetico, se si può dire così, quantomeno ha precorso un po' i tempi su quello che poi il mondo ha finito per vivere. Ecco, infatti ecco perché dicevo prima che non è caso, secondo me non è caso che certi argomenti nel movimento li abbiamo affrontati ma tantissimo tempo in anticipo. Soprattutto l'importanza dello spazio, soprattutto degli spazi nostri, quanto è importante aggregarsi intorno, satellitarsi intorno a dei nostri spazi, no? Si è visto che più di tanto durante questo periodo di Covid-19, no? Che questi spazi sono fondamentali per il nostro respiro, per la nostra esistenza, ma più che altro i nostri argomenti sono sempre stati un po' in anticipo di quello che succedeva, non perché ce l'abbiamo la capacità di prevedere il futuro, come hai visto te il 23 sera. Sì, no? E poi infatti, che era un po' il gioco quello a livello di concetto, è quello. Cioè non è che prevediamo il futuro, è che l'analisi porta a capire che certe cose non funzionano e vanno cambiate. Quindi non è il fatto che è caso, è volontà. E su questa volontà si crea tutto quanto un discorso intorno che i fili di discussioni, i fili concettuali che noi come treni ce l'abbiamo, i nostri binari che viaggiamo sopra, però ecco. No, e parlavi infatti, scusami, di non si parla di una divinazione, non di una profezia, ma di un'osservazione, certo, di cose effettivamente in atto e previsioni fatte a partire da quello. Basta essere un po' sensibile sulla questione, capire che cosa sta succedendo e con che velocità a prendere un po' le distanze e dire oh, qua sta succedendo qualcosa. Lo descrivo in una maniera, un concetto distopico, però certe volte cadi dentro, cioè praticamente lo prevedi. Prima di chiederti poi nel merito, effettivamente voi due, ma non solo voi due, anche altri partecipanti, non siete per nulla nuovi appunto all'attività di movimento, all'attività sociale e politica, sia nelle autogestioni degli spazi, nella partecipazione a collettivi un po' di tutti i tipi, effettivamente. È stato determinante, immagino, questo per connotare il modo in cui si è fatto il laboratorio teatrale post-work, cioè in uno spazio sociale, autogestito, un laboratorio gratuito, inclusivo e con una spiccata dimensione politica. Certo, assolutamente. Cioè, noi ci siamo incontrati con due diverse, un po' diverse modalità da fare. Cioè, la Pachita ce l'ha un percorso dietro di teatro dell'oppresso, teatro sociale. Io teatro comunitario in un certo senso, però classico, con un repertorio classico e fortemente concettuale dall'architettura. Però sicuramente i nostri percorsi durante questi anni sono stati la Squirt, sono stati sicuramente diverse situazioni cui ci hanno avvicinato molto di più a fare un'analisi ancora più profonda su quello che sta succedendo. Quindi la commercializzazione, se vogliamo dire, in un ampio un'ampia sfera su tutti i settori è stata veramente molto molto prima decostruita, no? Quindi questi temi si riportano sempre di nuovo, sempre davanti, perché non è niente risolto e qua ce l'abbiamo sempre davanti. Come l'avete reificata, cioè come è diventata qualcosa di materiale, uno spettacolo, alcuni spot o altro video, quello che avete fatto, insomma, questa vostra questo argomento a cui vi siete dedicati? Praticamente c'è la selezione, noi abbiamo partito dal concetto della selezione, cioè per quale motivo certe volte noi stessi selezioniamo certe cose o siamo selezionati, prodotti di selezione. E da lì è partita questa riflessione un po' distopica di toccare questo tema in modo distopico, e abbiamo trovato un filo conduttivo arricchito durante il laboratorio, che ognuno portava la sua onda. Sempre arricchito di più e di più e di più, ha preso forma quasi prima del Covid-19. E lì, piano piano, era difficile lavorare in gruppo perché non era possibile. Io soprattutto non ce l'avevo nemmeno la linea buona per potermi connettere e non potevo nemmeno connettermi a seguire quasi niente, cioè solo via telefono. E quindi piano piano ci siamo approfonditi sempre di più e sempre di più, e da lì si sono creati diversi canali che fino a ora li stiamo seguendo. Ma per chi ascolta la radio abitualmente, la tua voce, diciamo, francamente l'ha già sentita varie volte, sia perché eri già stato nostro ospite alla trasmissione La Trapunta, quando iniziava appunto il laboratorio Postwork all'inizio di questo autunno, sia perché anche in apertura di questa trasmissione abbiamo sentito un tuo O spot. perché mi sono lamentato una volta anni fa per un'analisi su un film. C'ero io, c'ero. No, era tu. Era Bene, bene, io no. qualcun altro, non mi ricordo. Poi indaghiamo, vai. E oltre agli spot, però, avete fatto un sacco di partecipazioni diversificate in questo periodo, vero? Ad esempio, avete prodotto alcuni video, avete realizzato alcuni eventi, di uno recente, appunto, la settimana scorsa ci stavi accennando poco fa. Già un poema, c'è cioè una poesia che è stata partecipata da tutti quanti quasi al laboratorio all'inizio della quarantena, quindi mi sa che l'avete Trasmessa, sì. già trasmessa. La rimanderemo anche. Poi il nostro tema doveva essere tipo questa famosa Marchesa, no? Il nostro spettacolo. Quindi da lì è uscito fuori questo personaggio scrivendolo e ha preso proprio ossa. Questo personaggio che si chiama Deborah Bevispermino, che è una proprietaria di terre lì nella campagna, e quindi è razzista, omofoba, ricchissima, e ha tutte le negatività del mondo. E tramite quella descrive il mondo distopico che ho vissuto durante la quarantena, che anche in un contesto di campagna non è che c'è stato il paradiso, parliamoci chiaramente, ci sono state difficoltà in qualsiasi contesto, però sicuramente abbiamo avuto molto più spazio, sicuramente molto più possibilità di sfogarsi, no? Di creare ognuno il suo. E lì mi sono riflettuto davvero tantissimo, e oltre la Deborah Bevispermino, che si è creata una serie di video, ho capito veramente questa scelta, no? Cioè, chi stava in città se la passava molto peggio di chi stava in campagna. Quindi per me lì era la considerazione dello spazio come una cosa molto importante, una cosa primaria, che sia lo spazio come la polveriera o i centri sociali, o che sia un spazio come la Mondeggi o altri punti di riferimento in campagna, sono indispensabili. Soprattutto in un discorso durante una crisi, vedi queste piccole differenze. Quindi non penso che ci deve essere una selezione sulle persone, sulle scelte delle persone. Deve essere un accesso molto più facile, molto più diretto su tutti quanti, perché tutti ce l'hanno le stesse necessità. Io mi ricordo, mi vergognavo tantissimo a raccontare che cosa si faceva in campagna. Un periodo dicevo: sì, ma stiamo lì a cenare, cioè tutto vago, perché mi vergognavo a dire: sì, si sta bene, dai. Mille difficoltà, però si stava bene, sì. Perché comunque sì, sono d'accordo anch'io, chi l'ha vissuta in campagna e chi l'ha vissuta in città, il periodo di confinamento l'ha vissuto Tragico. effettivamente in modo diverso, ma prima che iniziassimo questa intervista mi accennavi di come appunto questo esempio ha portato a riflessioni sempre maggiori, non solo sugli spazi in sé, ma anche sui rapporti fra i diversi spazi e nei diversi ambienti, come fra città e campagna. E beh, oltre a queste riflessioni ha portato anche nuove inclinazioni e Certo. nuovi percorsi, mi stavi dicendo. Sì, ma cioè, ci sono stati, i percorsi sono sempre stati, i discorsi sono sempre uguali, cioè non è che, solo che la volontà a questo momento è ancora più forte perché è stato previsto il futuro, capito? Io mi ricordo che l'ultima assemblea che sono stato a Mondeggi, c'erano i discorsi che stavamo facendo durante anche le domeniche, i mercati del contadini che si faceva in polveriera. Non sono discorsi così estranei che non si sono mai sentiti, sono discorsi che sono da tantissimi, forse anche anni, cioè il movimento non è che questi discorsi li ha appena scoperti, sono anni che si portano avanti, sempre però con una più necessità diversa. Ora questo momento c'è una necessità diversa e si stanno nascendo diversi comitati ovunque. Io ho visto anche il Val di Sieve in transizione, che stanno facendo anche loro un bellissimo lavoro e stanno cercando di fare le cose come abbiamo sempre discusso. E io stesso sento che da più voci e da più parti l'argomento continua a tornare, quindi mi sembra con una decisione sempre più netta ultimamente, quindi mi sembra assolutamente infatti attuale. Parlando però, mi dicevi di città e campagna, aspetta scusami stavo guardando un attimo i volumi qua. Allora, se sei d'accordo, siccome non sono convintissimo, facciamo una breve pausa, mandiamo sì, una delle canzoni che mi hai proposto. Vai. E poi ritorniamo subito a parlare da qui. Sì. Che cosa sentiamo? Sì, come si intitola? Scusami. Due si chiama. Via. stiamo trovando nella stessa onda, capito? Quindi per noi è abbastanza fondamentale questo. Ma a me, per me è stato... Sì, sì. Eccoci di nuovo in diretta con Andreas del laboratorio teatrale Postwork. Stavamo parlando poco fa del rapporto fra città e campagna, degli spazi e della loro interconnessione. Io, siccome tu svolgi oltre che una riflessione, voi anzi svolgete anche un lavoro in questo senso, sempre più marcato tra l'altro negli ultimi tempi, ti vorrei chiedere la tua opinione su come la parola, ma in particolare l'arte che più ti è propria, quella del teatro, della recitazione, insomma, possa essere diciamo utile a questo scopo di riavvicinamento benefico fra città e campagna. Quale ruolo può svolgere, come appunto la performance, la parola? Non voglio dire ora educativo perché è una grandissima parola. Noi vogliamo parlare più di un concetto di cura della persona. Quindi curarla nello spazio, quindi anche preparare lo spazio e preparare la situazione in cui la persona si sente veramente comoda, curare la persona. Poi se il concetto arriva o non arriva, questo è un po' ginnastica, un po' allenamento. Quello non è tanto importante se ti arriva per forza. Poi anche il concetto ti può arrivare con altri canali, con un volantino, con un discorso diretto. Il teatro è magico, il teatro ti deve respirare un po' un altro stato, non deve essere comunicativo in senso cerebrale, in senso scientifico. È un'altra sensazione, ecco perché anche dai rituali siamo passati al teatro. Era questa volontà mistica, religiosa, in cui si facevano rituali e con la parola si è messo dentro i rituali religiosi, la parola, e poi da lì siamo passati al teatro. Quindi c'è una connessione fortissima con una cosa metafisica, quasi mistica, senza entrare nel banale della religione, no? Sul banale, non ci interessa quella cosa lì. Però deve essere un racconto, ma qualsiasi racconto, un racconto semplice, con una magicità, con una cosa che ti prende e ti fa viaggiare il cervello, non che te lo fa diventare scienza, no? Ma te lo fa viaggiare, te lo fa aprire, fantasticare. In qualche modo voi vi state, tu in particolare direi, forse riavvicinando, fra virgolette, riavvicinando, rimettendo in auge un ruolo primordiale in qualche modo del teatro, con una nuova attenzione a queste forme ritualistiche, mutualistiche di partecipazione. Questo è un aspetto, perché anche te lo permette la natura stessa, no? Se hai visto, cioè, se ce l'hai una natura esplosa di elementi, tipo l'acqua, il suono, gli alberi, il fresco, lì per forza quasi diventa naturale di avvicinarsi in un certo tipo di lavoro, perché te lo ispira. Infatti ho visto e come, perché io accennerei anche velocemente a questo, ovvero al fatto che nella notte di San Giovanni avevi assieme a tuoi colleghi, amici, organizzato un rituale a tutti gli effetti, che aveva anche a che fare con, a proposito di tradizioni religiose profane, riviste, criticate, riattualizzate. Certo, questa era la scusa giusta, cioè proprio per poter applicarlo. Però il fatto era che a me mi interessava molto il tema del prevedere il futuro, che la tradizione dice che quella notte si prepara l'acqua muta e poi il giorno dopo si butta nell'acqua e si riflette con uno specchio dentro il pozzo, per vedere il futuro marito, no? Cioè questa era la pretesa. Il vero significato era che noi, con le nostre analisi, possiamo veramente prevedere il futuro, nel senso che lo possiamo capire e con i nostri impegni modificare, quindi attraversando i nostri spazi, vedendo c'è nuove realtà, soprattutto quello che in questo momento che si stanno crescendo anche in campagna, c'è questa tendenza della gente che per necessità vuole trasferirsi anche in campagna. Ci sono tantissimi binari che ognuno può seguire e arricchire con questi argomenti tante tante cose, quindi prevedere il futuro in senso che ci sono cose da poter seguire e poter andare fino al fondo, che saranno utili per la nostra generazione, per quelle che verranno, per quello che stiamo vedendo noi, come lo viviamo. Beh, io intanto approfitto già per ringraziarti qua in radio per avermi invitato, è stato un piacere partecipare ed è stato davvero molto bello, quindi spero che ce ne saranno ancora. È stato un numero chiuso solo perché ce l'aveva un parto il giorno prima, solo per lì, quindi, in quel spazio lì. La volta prossima quindi ti invitiamo non la settimana dopo ma la settimana prima, ciao. Così invitiamo via radio a questo nuovo rituale che comunque mi sembrava, oltre a questo che mi stai dicendo, volessi anche mettere in discussione delle forme preconcette, pregiudiziali, delle forme dogmatiche di fare, per esempio appunto questo ruolo che tu poi hai ricoperto durante il rituale, tradizionalmente spettava solo e soltanto alle donne e non fa parte della tradizione greca, giusto? Certo, però se hai visto ho cambiato gli abiti tornando, sì, perché vestito come eri con la camicia su e i pantaloni giù sei risalito dopo essere andato al fiume a prendere l'acqua, certo, muta, anche perché vestendoti. Doppio significato, perché in tradizione questa cosa la facevano le donne perché erano le non sposate, quelle che dovevano vedere il loro marito, no? Io da piccolo questa cosa non mi andava, quindi lo facevo lo stesso anche. E fa parte anche del mio percorso della mia sessualità, la mia ricerca, la critica su come percepiamo la sessualità, cioè tutto quanto, quindi è stato un doppio significato, non soltanto. Prima di chiederti dei prossimi eventi, ti vorrei trattenere ancora un po' su quello che fa parte del fino a oggi, per domandarti se vuoi parlarci brevemente del tuo percorso personale, come ti sei avvicinato al teatro e dove. Io piccolo, molto piccolo, avevo 12 anni. E avevamo la fortuna di avere questo gruppo con un regista, un professionista, e noi eravamo bambini, adulti e vecchi che facevamo parte dello stesso gruppo. Eravamo tanto tanto fortunati perché era l'epoca degli anni 90 che c'erano, l'Unione Europea dava soldi a tutti quanti. Eravamo in gemellaggio con una città in Palazzolo Acredi in Sicilia e facevamo i scambi culturali. Noi andavamo a fare i spettacoli nostri là e loro venivano, li ospitavamo. Così ho conosciuto l'Italia, cioè facendo i giri con il nostro gruppo di teatro, anche nel nord abbiamo fatto comunque classico, sempre Federico García Lorca, Brecht, Aristofane, Euripide, Sofocle. Una volta arrivato, visto l'Italia, ho fatto una scuola di decorazione di spazi interni ad Atene e poi una volta finita sono venuto a fare architettura. Ho smesso di fare teatro quasi per 10 anni facendo architettura e mi sono riavvicinato gli ultimi 5-6 con un altro aspetto, cioè la mia classicità ormai si è tanto mescolata con il concetto di architettura, proprio l'idea, che qual è l'idea che praticamente nella scuola, cioè, devi avere, quando fai un progetto devi avere l'idea, che devi condurre tutto intorno all'idea, cioè lo spazio te lo sta trasmettendo, no? Quasi. E quello mi ha fatto bene perché ormai sto lasciando la roba classica, sicuramente la vedi ovunque, però sono roba rivisitata, sicuramente roba non una linea classica ormai, è una linea concettuale. Invece, a proposito del futuro, quali sono i prossimi, il prossimo direi appuntamento che... Allora, se possiamo, vai, vai. Allora, ora con Next Emerson sta succedendo qualcosa, non lo voglio dire, non lo so, ancora forse è prematuro, però sta per succedere qualcosa a Next Emerson. Poi noi quest'estate succederà. Sì, quest'estate. Bene. Succederà. Come post work sicuramente con alcuni lavoriamo anche un po' individualmente. Quindi con la Pachita sicuramente facciamo, ora vediamo come, in che lei si sta scoprendo un po' il sostegno alimentare per portare il teatro delle ombre tradizionale, almeno greco, io conosco quello greco, no? È quello tradizionale, teatro delle ombre, che sicuramente c'è un filo molto vicino al teatro delle ombre persiano, turco, afgano, all'Asia, no? Fino alla Cina. Però io conosco quello greco, quindi porto la mia conoscenza sul teatro delle ombre greco. E volevamo farlo sia in città che in campagna. Quindi la Pachita si sta occupando di informarsi come possiamo portare anche nei cortili in cui si è stato, il sostegno alimentare è stato presente in questo periodo, o magari in altri spazi che apriranno. Speriamo che ce la facciamo ad aprire anche lo spazio giù della polveriera, il cortile nostro. In campagna soprattutto, perché io lo trovo fondamentale che gli spettacoli devono arrivare alle persone, non che le persone devono arrivare agli spettacoli. Cioè la campagna ha necessità di spazi, cioè non voglio dire cultura, ma di spazi di punti di riferimento. Quindi io voglio, come si faceva a tempi antichi, andavi con un megafono e dicevi: stasera si farà spettacolo in piazza, e io immagino una cosa così. Portare il teatrino delle ombre, che l'abbiamo pensato come un laboratorio per bambini o per adulti, di fare un paio di ore tutti insieme, creare le figure e poi tutti insieme creare una storia che ha qualcosa a che fare con quello che uscirà fuori dal gruppo, o spingere su qualcosa che crediamo che sia giusto, che alcuni devono informarsi, imparare quello che succede nelle campagne, le varie rivendicazioni che sono infinite, veramente. Ora mi sono informato la scorsa settimana su un parco eolico che vogliono fare alla zona di Vicchio, che ovviamente c'è una zona bellissima, che vogliono mettere dei pali che tra 15 anni non avranno nessun senso, e vogliono distruggere tutta una zona verdissima, bellissima, e tutta la gente di lì è incazzata nera, è ovvio. E anche quello è una bella opportunità per andare, spingere, informarsi, dare sostegno. Questo è uno. E l'altro sicuramente saranno le scene sensoriali, che sicuramente a me mi interesserebbe approfondire, perché il nostro spettacolo sarebbe una scena sensoriale, sarebbe un spettacolo basato sui sensi, quello finale, noi che non abbiamo potuto fare. Quindi quello lo voglio un attimo approfondire, ricercare un attimo, capire le sue potenze, anche perché è un percorso che abbiamo cominciato con la Squirt. Se non so se ti ricordi che con la Squirt stavamo girando con questa famosa, sì, sì, Quark Room, no? Che succedeva dentro tutto. Anche all'Emerson, a proposito di Emerson, fu allestita, mi pare. Sì, sì, sì, sì, sì. Ma non sei entrato, mi sa. Perché arrivo ai tardi, è vero. Allora ti tocca questa volta. Assolutamente. Quindi anche questo. E poi sicuramente se qualcuno, ci sono un paio di componenti che gli trovo fondamentali per poter partecipare, voglio fare le bacanti. Perché è un mio sogno, uno dei testi che mi ha influenzato tantissimo nella mia vita teatrale. Lo trovo un testo veramente particolare, veramente potente, e soprattutto negli spazi rurali, nella natura, viene una bomba. Avvicinandosi allora su questo concetto e questa atmosfera rituale, sensoriale, le bacanti può essere una bomba veramente atomica che possiamo utilizzare non per male, ma per bene. Speriamo davvero di potervi presto assistere, anche noi ovviamente seguiremo e rilanceremo per gli eventi locali anche sulla punta.org, che è l'agenda degli eventi cittadini che si svolgono qui, e per gli altri forse si può dare riferimento alla vostra casella mail, che dovrebbe essere, certo, sì, laboratorio, sì, sì. Postwork, giusto, @insiberia.net. Sì, sì. Bravissimo, lo sapevate io, no? Io non me lo ricordavo. È come quello della radio, è abbastanza. Allora Andrea, spero rimani, se sei d'accordo, ancora 10 minuti con noi verso la conclusione della puntata. Mandiamo un attimo un'altra canzone e poi torniamo fra 3 minuti di nuovo qua in diretta su Poyo It. Vai. Ai corpi senza pace fra il mio letto, alle anime perse dovremmo dare un tetto, ai corpi senza pace fra il mio letto, alle anime perse dovremmo dare un tetto, ai corpi senza pace fra il mio letto, alle anime perse dovremmo dare un tetto, ai corpi senza pace fra il mio letto. Figlia di quel ragazzo che nessuno ha visto più, passato 20 anni fa e non tornato ancora, si divertì con sua madre come sapeva fare, lasciandola addormentata a sorridere, a sognare. Alle anime perse dovremmo

si stavano avvicinando al sindacalismo, quindi avevano fatto un gruppo per le loro rivendicazioni lavorative. E a lei gli è sembrato veramente necessario fare qualcosa per toccare quel tema lì. E lì, da lì nasce, evolve la idea e nasce proprio includendo anche le nostre occupazioni, quindi dopo lavoro. Molto chiaro. E allora, togliendoti un po' dalle vesti di attore e portandoti in quelle di lettore, io ti proporrei, Andreas, di consigliare anche te ai nostri ascoltatori alcuni, non so, tre, per esempio, libri del cuore in qualche modo, che per varie ragioni potresti consigliare a chi ci ascolta, perché odiati o perché amati o perché significativi. Ma libri o testi? Va bene anche testi, è molto larga come domanda. Vai. Allora, la 1984 di Orwell, perché sì. Ragazzi, perché sì, perché sì, lo sì. È, perché lo sì. È una raccolta di poesie che si chiama Tre click a sinistra, della Caterina Gogou, una poetessa e attrice greca. Tre click a sinistra, secondo me lo trovate anche su internet, perché io mentre cercavo un suo testo, un poema suo, l'ho trovato. E poi Le Baccanti di Euripide, secondo me è fondamentale. Kafka, Tore, è uno che si chiama Dimitris Chronis e sarebbe tradotto in italiano il titolo Va bene, te ti sei ucciso presto. E cos'è, un romanzo? È la sua testimonianza quando ha fatto la prigione durante la dittatura. Mi ricordi, perché mi ero distratto, poi in realtà basta che riascolto il podcast della trasmissione che stasera sarà sul sito, l'autrice dei tre click a sinistra, come si chiama? Caterina Gogou. Lo sto scrivendo io mentre prendo anche appunti mentre faccio la diretta. Grazie, non conoscevo, grazie, sarà un'occasione anche per a te e a tutti i wombisti. I wombati. I wombisti è bella, però suona un po' teppisti e la gradiamo assolutamente. Allora, in conclusione, prima di mettere poi la sigla, ancora una tua pubblicità che in realtà va in onda durante il palinsesto quotidiano, però la mettiamo così in chiusura, un'altra delle pubblicità per questa trasmissione Poi UIT che hai realizzato in questo periodo di confinamento. Io ti inviterei a un'ultima cosa, un'ultima lettura, una piccola declamazione di versi, sei d'accordo? Va bene. Che cosa ci leggi? Allora, Ombra di Salvaguardia. È come praticamente il primo testo che abbiamo scritto, come se si può definire, laboratorio post-work, veramente in spiaggia della Basilicata. Nascita. Preoccupazione caustica, sviluppo in bola di plastica e perdi tempo. Crescita, selezione drastica, individualità antagonistica e te perdi tempo. Intelligenzia, informazione robotica, intellettualità propagandistica e te a perdere tempo. Progettazione istantanea, posa mimetica, sessualità anoressica, solo per perdere tempo. Credenzia, salvezza sinografica, promessa ipnotica, credi che ci sarà del tempo. Politica, aliena che vomita, vende sempre il tuo tempo. Compravendita, in vetrina arcobalenica, prezzo scontato soltanto il tuo tempo. Apocalittica, mancanza ossigena, riflessione anacronistica, dato cartesiano il tuo tempo. Un attimo, vorrei solo un attimo. Un respiro e ricarico, senza perdere tempo. Un volto pallido, un numero in transito, in un viaggio fantastico, ormai senza tempo. Take a walk on the wild side. E allora a me non resta che ringraziare nuovamente tanto Paquita per la scorsa settimana e Andreas oggi qui per essere stato con noi in questa duplice puntata dedicata al teatro e al laboratorio teatrale Post Work. Le si possono riascoltare entrambe sul sito della radio nella sezione podcast cliccando sulla trasmissione Poi You It. Per quanto riguarda invece i prossimi appuntamenti, i prossimi eventi di cui ci hai accennato, io direi che ci risentiamo, ti riospitiamo così ne parliamo. Vai, prima di qualche rituale, vediamo all'Emers che ormai l'abbiamo anticipato e sì, che cosa succede. E intanto l'ascolto anche di questa radio, perché la voce tua e di altri Post-Work, cioè quella durante la nostra settimana, viene messa durante il bobinone quando non ci sono delle trasmissioni. Grazie ancora a chi ci sta ascoltando, grazie a chi ci ha ascoltato, grazie a chi ci ascolterà in podcast, grazie a tutti per questa lunga stagione dedicata alla letteratura che si conclude domenica prossima. Questa era la penultima puntata di questi ormai quasi 4 mesi di trasmissioni dedicate alla letteratura. Domenica prossima alle 19 invece, questo alle 15.30, alle 19 sarà invece l'ora dell'ultima trasmissione delle nostre dirette speciali, almeno fino a settembre, sperando che non ci siano occasioni uguali per doverle rifare, ma magari le rifaremo lo stesso. Quindi l'appuntamento è domenica prossima alle 15.30 con Poi You It sul sito della radio, il palinsesto della settimana. Questa trasmissione la si potrà riascoltare in podcast anche 2 volte. Ricordo di nuovo i contatti: postawombat@insiberia.net. Grazie di nuovo Andreas del laboratorio. Grazie a voi. Grazie a te Marco. E a risentirci con tutti quanti presto. Vi lasciamo con una canzone, la sigla e un'altra pubblicità. Wombat.